America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, voglio cominciare con un po' di notizie perché in effetti ne abbiamo parecchie. Abbiamo il presidente degli Stati Uniti che è in India, un viaggio a New Delhi bilaterale, poi un po' di giri intorno all'India, ma la cosa importante è che ieri Barack Obama ha partecipato alla parata annuale, alla festa della Repubblica con il primo ministro Narendra Modi. Ecco, è una svolta perché è un, come dire, una dimostrazione di una forte unità fra i due paesi, ma di questo ne parleremo magari più approfonditamente domani quando questo viaggio sarà terminato. L'altra notizia è la neve a New York, ha cominciato a nevicare nella notte. Oggi le scuole saranno chiuse, le autostrade saranno chiuse, il governatore Cuomo ha mobilitato la Guardia Nazionale. Insomma, è un momento anche questo abbastanza delicato da seguire, anche perché abbiamo visto l'anno scorso che impatto c'è stato sull'economia con l'ondata di freddo. Ma la notizia che domina comunque in America è il risultato elettorale in Grecia. Ci si domanda, ma questa Europa come andrà a finire? Sopravviverà? Ci saranno delle polemiche, ci saranno delle spaccature, e in questa confusione, in questa percezione di difficoltà che si sente in America, emerge un personaggio chiave. Il personaggio chiave è Mario Draghi. E dopo la decisione della settimana scorsa, in America si ha la sensazione di avere adesso quel famoso numero di telefono che Kissinger diceva non esistere quando da Washington si deve chiamare l'Europa. Ecco, il numero di telefono per chiamare l'Europa è quello di Mario Draghi, perché oltre ad aver dimostrato e affermato l'autonomia e l'indipendenza della Banca Centrale Europea, ha anche la leva monetaria, ha il potere economico per poter prendere delle decisioni solo nell'interesse dell'Europa, invece che nell'interesse dei singoli stati, come gran parte dei leader europei fanno. E che io vorrei parlare oggi di questo e del ruolo di Mario Draghi in questo nuovo contesto europeo, sia politico che economico. E ho con me ai microfoni di America 24 Lucio Levi, professore di scienze politiche all'Università di Torino, ma soprattutto presidente del Movimento Federalista Europeo. Buongiorno Levi. Buongiorno. Parto subito con la domanda. Allora, c'è il numero di telefono per l'Europa oppure forse mi sono spinto un po' in avanti? Certamente la Banca Centrale Europea può essere definita come un'istituzione a pieno titolo di carattere federale. Perché questo? Perché intanto abbiamo 19 stati senza moneta nazionale e una moneta europea, quindi la sovranità monetaria è passata dagli stati alla Banca Centrale Europea, e quindi questo certamente è il grande potere che ha Draghi. In secondo luogo, nel board della Banca Centrale Europea si prendono decisioni a maggioranza. Tutti sanno che il grave limite, il fatto che non c'è un numero di telefono per capire qual è la politica europea, sta proprio nel fatto che esistono dei settori cruciali di attività dell'Unione Europea nei quali si decide ancora all'unanimità. Questi sono la politica fiscale, la politica estera e di sicurezza e la revisione dei trattati. Ecco, ma vediamo quello che ha fatto Draghi la settimana scorsa, perché io ho avuto come la sensazione che ci sia stata una svolta. Cioè, Draghi ha affermato in modo molto concreto l'autonomia della Banca Centrale Europea, ha compiuto secondo me un passo in avanti anche sul piano politico. Secondo lei c'è un precedente nella storia della Federazione Americana a cui lei pensa di potersi rifare? Hamilton può essere paragonato a Draghi, anche se Hamilton ha agito dopo la Costituzione degli Stati Uniti d'America come ministro del Tesoro, è stato il primo ministro del Tesoro degli Stati Uniti e è famoso nella storia per essere stato l'autore di tre grandi rapporti al Congresso del governo federale, quello sul consolidamento del debito pubblico e l'assunzione del debito da parte del governo federale, il debito contratto durante la guerra di indipendenza e per finanziare la guerra di indipendenza, il rapporto sulla banca centrale e il rapporto sulle manifatture, che sono tre grandi capitoli di un'unica grandiosa visione di Hamilton, volta a creare una solida rete di interessi attorno al governo federale, che era inchiodato al centro di un grande continente. E lei vede un parallelo con Draghi, tra Hamilton e Draghi? Certo, molto stretto, perché appunto la politica di Draghi è, pur essendo limitata al campo finanziario e monetario, è una politica che tende a consolidare l'Unione Europea. La moneta è il pilastro dell'Unione Europea ed è un'istituzione federale. Manca l'unione politica. Hamilton ovviamente aveva già un'unione federale. Ma perché, secondo lei, questi politici europei non cedono un pochettino il passo a un'autorità superiore che dia poi quell'unico numero di telefono, che non sia soltanto quello di un banchiere centrale? È una legge bronzea della politica e dell'economia, cioè chi ha un potere sovrano non lo cede spontaneamente, quindi deve esserci costretto. Solo alla vigilia di una crisi che avrebbe compromesso la stabilità dell'euro si prendono delle decisioni coraggiose per procedere nella direzione di cessioni di sovranità. Lei pensa che dovrà esserci un'altra situazione difficile, oppure siamo già avviati sulla buona strada? Sì, il piano Juncker in qualche modo è una risposta alla necessità di un piano di investimenti che affronti il problema dello sviluppo sostenibile e dell'occupazione. Quello che manca sono le risorse proprie, e quindi bisogna alimentare il bilancio europeo con una tassa sulle transazioni finanziarie e una tassa sulle emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera. Ecco, questo è il prossimo passo, che naturalmente si proietta nella direzione di un governo europeo dell'economia, quindi di un governo tout court, quindi che sia anche capace di parlare con una sola voce nel mondo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo parlato di sopravvivenza dell'Europa, e l'Europa, yes, it will survive. Dunque, Gloria Gaynor, I Will Survive, in nome di una speranza europea. Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!